Vendo tutto di Matteo Caccia. Sono passati più di 3 mesi da quando ho iniziato a vendere tutto. Non è stato facile, ma ho pensato che l'obiettivo finale sarebbe valso tutti gli sforzi. La lista dei desideri mi aspetta. Sabato realizzo il primo. Mi lancio col paracadute. Vendo tutto. La mia ragazza mi ha lasciato dopo 4 anni insieme, lo so, capita, succede a tutti e stavolta è toccato a me. Io però ho deciso, mollo tutto e me ne vado. La mia vita di seconda mano è in vendita, io ne inizio una nuova, venite a comprarvela. La vendita è aperta. Oggi vendo un leggio. Sono le 16.07, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia, buongiorno a tutti. Innanzitutto io voglio ringraziare... non male, voler ringraziare e non ricordarsi il nome perché devo leggerlo. Lorenzo è un ascoltatore che mi ha mandato una cartolina cartacea. Da cui cartolina, in cui la foto sono 2 macachi che spuntano da una vasca d'acqua calda, che è chiaramente Nagano e le terme, che sono uno dei luoghi in cui vorrei andare con i soldi che sto facendo vendendo tutta la mia roba. Mi scrive: realizzare i propri sogni è stupendo, realizzare anche quelli degli amici è fantastico. Se vuoi qualche dritta su come fare il bagno con i macachi, sono qui. Grazie per avermeli fatti scoprire. Ti mando la cartolina dall'Italia per essere sicuro che arrivi. Grazie Lorenzo, effettivamente non mi ero accorto che posta prioritaria italiana, anche se però la cartolina arriva da Nagano. Grazie mille a Lorenzo. Ricordo anche che c'è un altro indirizzo, che è vendotutto@radio24.it, 800 24 0024 800 24 0024, per chiamare 349 238 6666. Notizie di servizio: comincia il Salone del Libro a metà maggio e noi siamo là, dunque c'è tutta Radio 24. Tra l'altro, scusate se... Le radio normali, giusto Fede? Le radio normali ti danno delle sedie per sederti, giusto? Dico, se sei il pubblico. Ale, anche tu. C'è un sacco di gente oggi in regia. Se sei il pubblico e passi di lì perché vuoi sentire il tuo programma preferito e lo vuoi vedere, ma anche solo sei spossato dal Salone del Libro e vuoi appoggiare le chiappe da qualche parte, tutte le radio normali, Radio 1, Radio 3, Radio DJ, Radio DJ non credo che sia al Salone del Libro, comunque quelle radio lì ti danno delle seggioline. Se va bene, degli sgabelli. Radio 24, in esclusiva, come unica radio presente al Salone del Libro, vi offre una serie di puff. Quindi, se capitate da quelle parti... È vero che ci sono i puff, no? Faggi, l'hanno detto ieri... Che non è l'unica radio che c'è lì, e questo è vero, ma che siamo gli unici che abbiamo i puff, è vero o no? Oh, 800 24 0024, se volete prenotarvi un puff, non so, magari si può mettere riservato sul puff, è il problema che essendo puff, vabbè. Noi comunque venerdì 14 maggio siamo in diretta dal Salone del Libro di Torino, ci sono tutti, ci sono io, c'è Bonini, c'è la Faggin, forse c'è il Genovesi, non si sa mai da che parte stai, da che parte è girato, però noi siamo là alle 4 del pomeriggio. Quello che venderò lo scoprirete presto, perché chiaramente venderò qualcosa anche lì. Possiamo dire che c'è un regalo, possiamo dirlo, cosa avevamo deciso? Che c'era un regalo? Non mi ricordo già più, qualcosa. Bonini dice che qualcosa l'ho portata a casa. Oggi è un delirio, ricominciamo da capo, ricominciamo che oggi vendo un leggio. Per vederlo andate sul sito radio24.it, 800 24 0024, però, perché oggi si parla di grande teatro. Oggi grande teatro qui a Vendo Tutto, ci sarà un pezzo che leggerò malamente io e poi farò leggere in maniera migliore da un doppiatore che l'ha doppiato in un film, ma oggi si parla di teatro, oggi si parla di tutti quei gruppi che nascono nei piccoli centri, che nascono nei quartieri, che nascono negli oratori. E voi che siete all'ascolto e che magari fate ad esempio il consulente, oppure fate l'impiegato, oppure siete un agente di commercio, ma che avete il teatro nel cuore e lo fate nella vostra città, nel vostro paese, nel vostro quartiere, 800 24 0024, vogliamo sapere che cosa state preparando con il vostro gruppo, quale spettacolo è, quanto state provando, che poi di solito i gruppi amatoriali funzionano così, che fanno una prova a settimana per 9 mesi, poi arriva l'ultimo mese, abbiamo anche Alessandra, la nostra speaker, che... ma tu non farai teatro amatoriale, Alessandra, tu sei una professionista, però anche tu ti riduci a provare all'ultimo momento. 800 24 0024, il grande teatro amatoriale qui oggi avendo tutto, voglio sapere tutto del vostro gruppo, dello spettacolo che state preparando, come lo state preparando e soprattutto quando andate in scena, è anche un modo per fare un po' di ufficio stampa. Veniamo invece al mio leggio. Volete vederlo? Radio24.it. Volete sentirlo? Eccoci qui. Il leggio. Leggio telescopico e trasportabile, colore argento, peso 1,8 kg, altezza 1,20 m. Appoggio modulabile dotato di fermafogli, sostegno a tre piedi. Ottimo per chi legge solo in piedi e mai seduto o per chi abbia velleità di lettore ad alta voce. Valore commerciale 37 euro, base d'asta vendo tutto 99 centesimi. Per informazioni e foto www.radio24.it. Per la diretta 800 24 00 24. Vendo per volontà di liberarmi di tutto. In qualche modo ho lavorato e ancora lavoro in teatro. Purtroppo trovo noiosa gran parte della roba che ci vedo. Però per certi versi mi sono convinto che la noia sia una piccola tassa da pagare. È come se alla fine qualcosa di buono ci sia sempre quando si esce dalla sala di un teatro. No, ok, ci ho provato, ma non è vero, lo dico per convincermene, perché penso che in fondo andare a teatro sia piacevole e quindi cerco di convincere me e gli altri che magari uno spettacolo, anche se brutto, ha qualcosa di buono. Invece no, se uno spettacolo è una rottura di maroni, rimane una rottura di maroni. Una delle cose più noiose che si possono vedere in un teatro sono le letture. Esistono due categorie di letture. La prima è la lettura semplice, un leggio, un copione e qualcuno che lo legge, punto. La seconda invece è la mise en espace, cioè è una lettura che si dà un po' di aria, si dà aria di spettacolo. Una lettura in cui gli attori, pur con i copioni in mano, si aggirano per il palcoscenico. Ora, è sicuramente un problema mio, ma con tutto rispetto per i grandi interpreti che negli anni hanno letto Manzoni, hanno letto Tomasi di Lampedusa, Dante, ci sono poche cose che trovo inutili come le letture sceniche. Dico, se devi fare una lettura, no? Tanto vale fare uno spettacolo. Perché alla fine, se proprio voglio leggermi un testo, me lo leggo io. Così almeno se non capisco delle cose posso tornare indietro, rileggerle, oppure posso saltare in avanti se qualcosa non mi interessa, giusto? Però, ovviamente, come tutti quelli che hanno lavorato in teatro, la mia bella lettura è capitata pure a me. Ero da poco uscito dall'accademia. Mi trovavo come tutti i giovani appena diplomati con una gran voglia di spaccare tutto, ma senza nulla per le mani da spaccare. Perché le scuole d'arte fanno sempre questo effetto ai propri allievi. Danno la sensazione di insegnare un mestiere. Trasmettono la tecnica, ti danno i metodi. E chi ci sta dentro per 2 o 3 anni si convince di saperlo fare quel mestiere lì, no? Di sapere disegnare, di sapere recitare, suonare, scrivere. Poi esce e si accorge che in giro c'è un sacco di gente che sa fare quella stessa cosa. In molti casi peggio, in alcuni meglio. Ma che non era così semplice come sembrava quando ero in aula. Insomma, io ero esattamente in questa situazione quando un amico mi disse che un regista cercava attori per fare una lettura. Mi presentai, lui mi fece un provino e mi prese. Io ovviamente fui felicissimo, anche se non sapevo a cosa stavo andando incontro, visto che era una lettura di soli brani shakespeariani e che addirittura mi sarei dovuto portare io il leggio da casa, perché sai com'è, soldi non ce ne sono. Mi comprai questo leggio, quello che vendo oggi, e mi preparai il monologo di Enrico V, quello in cui lui sprona i suoi sudditi alla battaglia convincendoli del fatto che è meglio essere in pochi a combattere contro l'esercito nemico e che quelli a casa si pentiranno di non essere stati lì a combattere insieme a loro. Era molto difficile, ma ci provai. Cugino, se è destino che si muoia, siamo in numero sufficiente a costituire per la patria una grave perdita. E se siamo destinati a sopravvivere, meno siamo e tanto più grande sarà la nostra parte di gloria. In nome di Dio ti prego non augurarti che abbiamo un solo uomo di più. Non sono avido di denaro né mi curo di vedere chi mangia mie spese e non mi addoloro se altri portano i miei abiti. Queste cose non sono nei miei desideri. Ma se è un peccato essere avido di onore, allora sono l'anima più peccatrice di questo mondo. No, non augurarti neanche un solo soldato che arrivi dall'Inghilterra. Non vorrei perdere quel tanto d'onore che un solo uomo di più potrebbe condividere con me, neanche se ne andasse di mezzo la salvezza della mia anima. No, non desiderarne neanche uno. E piuttosto, fa proclamare in tutto l'esercito che chi non si sente l'animo di combattere, se ne vada. Gli daremo il passaporto e gli metteremo in borsa denaro per il viaggio. Non vorremmo morire con alcuno che temesse di esserci compagno nella morte. Oggi è la festa dei santi Crispino e Crispiano. Chi sopravviverà e tornerà a casa, si leverà in punta di piedi e si farà più grande a nome di San Crispino. Chi non morirà oggi e vivrà sino alla vecchiaia, ogni anno, la vigilia di questo giorno, chiamerà i suoi vicini e dirà: domani è San Crispino. E poi tirerà sulla manica e mostrerà le cicatrici e dirà: queste ferite le ebbi il giorno di San Crispino. I vecchi dimenticano ed egli dimenticherà tutto come gli altri, ma ricorderà le sue gesta di quel giorno. E forse anche un pochino di più. E allora i nostri nomi, che saranno nomi familiari sulla sua bocca: Enrico il Re, Bedford ed Exeter, Warwick e Talbot, Salisbury e Gloucester, saranno nei suoi brindisi rammentati e riviveranno. Questa storia ogni brav'uomo racconterà al figlio. E il giorno di Crispino e di Crispiano non passerà mai da quest'oggi fino alla fine del mondo senza che noi in esso saremo menzionati. Noi pochi. Noi pochi. Noi felici pochi. Noi felici pochi. Manipolo di fratelli. Noi manipolo di fratelli. Poiché chi oggi, verserà il suo sangue con me sarà mio fratello. E per quanto umile la sua condizione sarà da questo giorno elevata. E tanti gentiluomini ora a letto in patria si sentiranno maledetti per non essersi trovati oggi qui. E menomati nella loro virilità, sentendo parlare chi ha combattuto con noi questo giorno di San Crispino. Forza di pubblicizzarla, verrei a Torino solo per conoscere la Faggin, anche perché è mia conterranea. Ciao Buddy, ricordiamo, visto che prima l'ho detto in maniera praticamente un po' caotica, il venerdì 14 maggio in diretta dalla Sala del Libro di Torino vendo tutto alle 16, dalle 16 alle 16.30, 349-238-6666. Noi stiamo provando da un anno con il gruppo dei ragazzi disabili del nostro centro, siamo due consulenti e una signora anziana. Che sono due categorie, no? I consulenti e i signori anziani. La prima è il 5 di giugno. Il tema è la metafora della vita raccontata da un viaggio in treno. Ciao Gabriella. Ciao Gabriella, e poi ancora Felice. Ciao, io non faccio proprio teatro, ma quasi. Abbiamo un'associazione medievale XIII secolo. Cioè, che si chiama XIII secolo, in cui facciamo combattimenti, racconti di divulgazione storica, templari e in più arti e mestieri dell'anno 1000. Ciao Felice, 80024 0024, invece sentiamo subito Francesco da Monza. Pronto Francesco? Ciao Matteo. Ciao, come va? Bene, bene. Bravo, tu che cosa fai nella vita cosa fai? Faccio anche il consulente, guarda un po'. Di che cosa? Al volo, Francesco, perdonami, di che cosa? Consulente in azienda o nel sociale, insomma, usando il teatro peraltro. Vabbè, ci hai buttato dentro tutto, ma così non vale, consulente di una roba deve essere. Vabbè, andiamo invece al teatro, che cosa fai con il teatro o per il teatro? Guarda, io pratico un teatro in cui ci si diverte anche durante le prove. Cioè? Si chiama Playback Theater e mette in scena le emozioni del pubblico. Scusami, mi ripeti il nome che l'ho perso? Si chiama Playback Theater. Playback Theater, ok. Ed è un teatro che mette in scena le emozioni del pubblico. Cioè, scusami, mi spieghi al volo? Cioè, non c'è un copione, non c'è un testo. Improvvisazione? Improvvisazione teatrale con le emozioni e le storie del pubblico. Vabbè, fammi un esempio però. Com'è che il pubblico ti racconta una sua emozione e tu la traduci in scena? Tipo, c'è un titolo. Sì. Un titolo che può essere uno dei più disparati. Sì. E c'è un conduttore che chiede al pubblico: ma che cosa pensate, sentite, vivete, avete sperimentato su questo tema? E un volontario del pubblico si alza e dice: io ho vissuto questo, questo, questo e questo. E la compagnia di attori immediatamente mette in scena quanto raccontato. Senti Francesco, quando è che lo fate una prossima serata? Guarda, noi siamo a Monza e sarà i primi di giugno, a Vedano all'Ambro. Ok, quindi il titolo della serata qual è? Playback Theater. Il sogno. Il sogno, va bene, che è anche il tema della serata. Grazie Francesco, esatto, buona serata, in bocca al lupo. Andiamo, Umberto da Como. Pronto Umberto? Ciao, ciao. Sono Umberto. Io sono Matteo. Allora, io nella vita sono uno studente, nel tempo libero faccio parte di una compagnia teatrale che si chiama Le Nuove Proposte di Cirimido. Scusami, le nuove proposte di? Cirinido. È un paese nei... Ah, è un paese, perdonami, credo fosse sì, un autore. No, figurati, è un paese vicino a Como. È nato alla fine degli anni Ottanta ed è specializzato in musical. Attualmente noi siamo in giro con il musical Pippin. Che cos'è, scusa Umberto, Pippin? Allora, praticamente è la storia di Pippin, appunto, che è il figlio di Carlo Magno, che è alla ricerca del senso della vita. E durante questo suo viaggio c'è una compagnia di attori che lo guida a provare un po' tutte le cose della vita, perché alla fine il loro intento qual è? Di fargli fare un finale spettacolare mai visto sul palcoscenico. Ma questo in musical, Umberto? Sì, è un musical, esatto. È un musical di Broadway che noi portiamo per la prima volta in Italia. Tu che cosa studi, Umberto? Io studio a Como in turismo. Quanti anni hai? Tutto tecnico, 18. Chi è che parla sotto invece, Umberto? Scusa, è mio fratello, che è un tuo grande ammiratore. E cos'è che ha detto Lorenzo? Ha detto che ti stima molto. Senti, me lo passi al volo, Lorenzo, e poi ti lascio andare a Pippin. Salutami tutti quelli della compagnia. Sì, te lo ciao, passo. Ciao, Umberto, ciao. Pronto. Lorenzo, sei un grande. Grande anche tu. Grande. Possiamo andare avanti così fino alla fine della puntata. Quanti anni hai tu, Lorenzo? 14. E ascolti Radio 24? Mi hai fatto la stessa domanda su Facebook. Ah, vedi, sei sempre tu allora. Ok. E tu mi hai detto, capita di ascoltare anche quella. No, solo vendo tutto, per il resto non ha neanche la radio. Umberto, buona questa facciamo che la tagliamo quando nella registrata. Ciao, grazie, buona giornata, Lorenzo. Ciao. Andiamo a Roma, da Lino. Pronto? Pronto? Lino, buongiorno. Buongiorno a voi. Come stai? Bene, voi? Bene, dammi pure del tu, nel senso che sono da solo. Vabbè, io ho una certa età, quindi mi posso anche permettere di trattarti da nipote. Vai, mi piace questa cosa. Con che spettacolo stai andando in scena e come si chiama la compagnia? Allora, la compagnia si chiama I Sempre in Tempo ed è collegata al corso di storia del teatro che io insegno alla Università delle Tre Età, si chiama così. Sì. Okay. Ci sono gli anziani, i non anziani e i giovani teoricamente. Siamo però tutti meno medi anziani e ultra anziani. Quanti anni hai tu, Lino, scusami? Io 75. Allora okay. Sono 6 anni che io insegno storia del teatro e storia dei capolavori teatrali. Wow. E da 5 anni metto su ogni volta un saggio recitativo di fine anno, appunto, a dimostrazione del lavoro di apprendimento dalla cattedra. E allora siamo partiti con Così se vi pare di Pirandello. E con una progressiva immersione nel teatro del Novecento abbiamo già fatto Il Terzo Marito di Sabatino Lopez, poi Corruzione al Palazzo di Giustizia di Robetti, certo. Poi Io l'erede di Eduardo, una delle meno conosciute, e adesso, perché cerco di agganciarmi un po' all'attualità, adesso stiamo per mettere in scena I Burosauri, che sembra quasi fatto dopo la cura Brunetta per la certificazione automatica pubblica. Senti, è una presa in giro del modo di fare dei ministeriali di 60 anni fa. La mise in scena Ernesto Calindri. Ma quando è stato scritto, Lino, questo testo? I Burosauri negli anni 70. E quando andate in scena con lo spettacolo? Il 12 maggio e il 16 maggio. In quale teatro? In che posto? In 2 teatri di Ostia Lido. Benissimo, Lino, in bocca al lupo, o come si dice in questi casi, merda. Grazie mille. Grazie, ciao, in bocca al lupo a voi. Ciao, alla prossima. Niente, qui oggi solo insulti arrivano. Ma come hanno fatto a prenderti la parola in teatro? Cazzo, ma sei proprio un cane sei proprio un cane malato, Fabrizio da Valenza. Grazie Fabrizio, grazie anche a Laura Faginti, Tiziano Bonini, Alessandro Genovesi e Fabio Rudi Cantadori, che oggi è stato al mixer. Il leggio è sul sito radio24.it, su Facebook Matteo Caccia vendo tutto. Mi ha fatto troppo ridere questa del cane malato. Chiudo, domani vendo una coppia di hard disk. Voi, se invece andate a teatro, abbiate fiducia e abbiate pazienza, che alla fine il teatro è sempre il teatro.